cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. C'è nessuno, c'è nessuno. Siete tutti con la faccia accesa, ma non risponde nessuno. Siete lì, tutti lì, non risponde nessuno. Sì, avanti, chi è? Chi, scusa, Cristian? Ah, ok. Però dove stai, moduando? Allora sei in Sassari? Ecco, ha fatto in macchina. Non ho capito. Come si era portato, adesso ho capito, andare, andare. No, non ho capito niente, cosa hai detto. No, negativo, stacca un po' la bocca al microfono. Ah, ok, ora va bene. Va meglio. No, no, ci siamo, ci siamo. Moduliamo sul 10, ma sull'11 non c'è più nessuno, però si modula sul 10. Non so fare se Sassari uniti. Aggiungi sempre pochi ma buoni. Eccolo qua, lui, buonasera. Salute, salute, sempre pochi ma buoni. Claudio, l'hai sentito l'amico Cristian, che saluto oltretutto per la prima volta perché non l'ho mai sentito. No, saluto io a Cristiano, non mi interessa salutare a Cristiano, io posso salutare Antonio, fratello, ma lui no. Ciao Cristiano. Ma Antonio che fine ha fatto? Che sciughe. Mi ha messaggiato da poco che stava finendo la lavoro a Olbia, non si è più fatto intendere, volevo chiedere un'informazione. Anisai tu, sparito. Per carità, che fratello che c'hai. Sembra Chihuahua, piovendo sta porotosci, che ti ha avuto una grandinata, no, che sta gira, ciu ciu. Ma no, non lo so, perché sono entrato qua, sono in attesa di entrare al volo. Non posso, lo posso dire. Però non sento niente adesso, proprio qua stava piovendo, adesso no. Sì, grazie a Dio, tutto bene, tutto a posto, molto rilassato, molto tranquillo. È che sono capitato il primo inverno, ma minchia, c'è un freddo allucinante qua in alto, molto di più di dove abitavo prima, molto, molto di più, basse, basse temperature, però dentro casa già si sta bene, fuori non me ne affutti nulla. Cosa stavo dicendo? No, grandinato forte qua oggi, non ti invidio, è una bella passata di maestrale fresco stasera ti prendi, mamma mia. Stasera ce la prendiamo, vabbè, Cagliari, prendiamoci il buono e il brutto. Sì, vabbè, già siamo tappati, vai. E ci avete quei giubbottoni belli della cooperativa, belli teci. E abbiamo quei giubbottoni, ma si impediscono i movimenti. Sono più che altro una rottura di scatto, perché io sembro un palombaro quando me lo metto. Ehi, qua c'è tu, quello giallo o con l'arancione? Sono uguali, arancione ce l'ho, sono uguali, cambia solo le... il colore, ma hanno il colletto alto, sai, quelli colletti alti per il vento, per la cervicale, ma ti impediscono i movimenti, io non me lo metto mai. Io quando ero fuori d'inverno lo usavo tantissimo, sono uguali a quelli lì, sono impermeabili, hanno il collo alto alto, non si vedeva manco la bocca, un berrettino, una cuffietta, ti dico che sì, è vero, ti impedisce i movimenti, ti impedisce soprattutto a me che facevo molte letture, mi inchinavo, barivo un handicappato, però mi riserva tantissimo oggi. Già lo so, ma io quando lavoro devo stare libero, è più forte di me, non viene. Già abbiamo le cuffie in file, il copricollo, tutto dell'azienda, i felponi grossi che sono più leggeri e più facile nei movimenti. E va bene. E quindi Cristian. Cos'hai detto? Ah io, va bene, trovo a parcheggio. Ha già detto oggi, allora c'è tempo a non provocare, se non quando vai sui giubbotto che non ti vuoi muovere, no, non puoi partire. Che... Ah, è stato che io ricordo in chi non entra. È talmente grosso e rigido di golpi non entra. Stai dicendo, ma Mario, più sentito là. Se non mi ricordo se è entrato stamattina o io, forse stamattina è entrato a salutare, boh. Veloce, veloce. Poi non l'ho più sentito perché io stavo smontando l'altra antenna che domani mattina deve venire il corriere a prendersela, che l'abbiamo venduta a Cagliari, capito? E quindi l'ho smontata, imballata, domani mattina verso mezzogiorno passa il corriere a prenderla, così domani sera parte alle 6. E quindi c'è, con le radio accese, sono entrato un attimo, ho salutato a Marco, a Natalino, a Luca c'era, e mi pare che è entrato anche lui a salutare, adesso non mi ricordo. E poi c'era Claudio, Claudio molto presente, era tutta la mattina in radio. radio con noi. Claudio, da Pozzolo, sì, finalmente, da un po' che non lo sento anche a lui. No, Claudio è sempre presente, la verità. Io sono molto in contatto con Claudio, sia su WhatsApp che, vabbè, adesso perché sono un po' incasinato con WhatsApp perché non prende qua, quindi a volte non riesco a rispondere, non mi arrivano i messaggi. Però in radio si sta facendo sentire abbastanza, è un po' presente, più di tanti altri lì a Porto Torres. Vabbè, perché è un po' che non lo sento a Claudio. Sentivamo sul 12, poi niente, da un po' che non lo sento comunque. No, sta entrando, c'era anche stamattina, magari entra anche stasera, non lo so. Non lo giaccio, io sono andato a prendere mia figlia alle 4, anzi alle 3, al lavoro, tanto non vedo un'anima. Ce ne siamo andati a Conferama, ho preso uno scaffale che mi serviva, qualche altra cosa, poi siamo andati alla Conad, abbiamo fatto un po' di spesa e ce ne siamo rientrati a casa. Tanto è un freddo pure, ho già visto, non ci fai niente in giro. Mamma mia, io mi dischiavo di porta adesso, mamma mia. Faccio una gara, che mi ha messo freddo. E oggi anch'io ne ho preso tanto, ma tanto, e oggi ne sto risentendo parecchio. Io un giorno sì, un giorno no, prendiamo una bustina per la schiena, un antinfiammatorio, altrimenti non riesco a fare niente, ma nulla proprio, mi devo stare sempre seduto, invece così mi aiuta, però per quanto tempo posso farla una cosa del genere, alla fine mi rimane il sogno. E infatti, troppo vicino è un problema, diventa un problema dopo. Lo so, ho cercato di dimagrire, ho dimagrito una decina di chili, sì, sono molto meglio, però il problema c'è, perché il medico mi ha detto il copeco, cerca di dimagrire, un po' di chili, vedi un po', va bene, 10 chili netti, da 92 a 82, adesso sono di nuovo 83, perché sai, con questo freddo, magari un goccettino di vino in più, se no non stiamo toccando niente, qualcosa si mangia di più, capito? E quindi qualche chilo l'ho preso, però sono nella media, 82-83, non è che cambia molto, va bene, però mal di schiena c'è sempre, è dovuto appunto dal freddo, c'è un'artrosi di lisi allucinante, l'ombosacalgia, che è voce sulle settare. Cosa c'hai, anche l'ernia del disco? Non l'ho mai fatta la lastra per le frutti, mi hanno riscontrato ad Alghero una forte lombalgia, ma di quelle proprio croniche, praticamente l'ultimo anello è una coma vertebrale, F5 è completamente consumato, quando si infiamma mi tocca e quindi mi dà un dolore allucinante. Ma sei andato da una nutrizionista? Non sono nato all'Alghero, all'ospedale Marino, dall'ortopedico, il figlio di professor Medici, lui non c'è più, c'è Giuseppe, il figlio che è molto bravo, infatti mi ha detto stai molto attento, non fare sforzi, quando prendi pesi inchinati, scendi con le ginocchia, non abbassare solo la schiena perché può darsi che salendo rimani fermo, capito? Infatti io pesi non ne sto prendendo più. Ovviamente cerco di farli meno bruschi possibile, capito? Però in campagna va sempre a fare il giro. Ho capito, ma per dimagrire hai fatto una dieta, cioè sei andato, ti ha seguito qualcuno, una nutrizionista? Sì, un dietologo mi ha detto cosa più o meno potevo mangiare, potevo fare, tengo sempre quella vita, io pane ne mangio pochissimo, prima di che bagni di mortadella, la mattina alle 10, a merenda, pane e Nutella, di tutto e di più, capito? Quindi ho mollato queste cose, la pasta la mangio integrale, e solo, ti ripeto, d'estate non tanto, ma d'inverno un goccettino di vino mangiando, poi mia figlia porta questi vini, cazzo al bar, dici allucinanti, mi piacciono tantissimo, e quindi magari invece un bicchiere a pranzo, due bicchieri a cena, perché magari poi te ne vai a letto, e fa ingrassare, il vino fa ingrassare un bel. Ecco, ho capito. Vabbè, cosa, cioè ti vedi anche quelle cose lì, ma dopo sei a casa, va tranquillo, allungaggio. Ma ecco, registrato, no, mai fatto, non me ne fatto niente oggi. Anche stanotte a mia casa c'è anche lei, il mio genere. Ce la beviamo una bottiglia di brutta porta. prima non ho fatto ascolto, ho sentito solo a te, a Eugenio. Buonasera a tutti e due, non so se ci sia qualche altro. Avanti Claudio. No, no, momentaneamente non c'è nessuno, siamo io e Eugenio, c'era Cristian ma stava parcheggiando. Cosa metti? Il vino è fresco, basta la faccia alla finestra, cacchio, ci sono 6 gradi. Sì, adesso amico mio, buonasera. 6 gradi da te, non che viene 3. Allora lo devi scaldare un pochettino, ciao Gio, comunque ben sentito. Allora lo devi un po' scaldare perché la temperatura del vino mi sembra sia intorno ai 5 gradi ideale, o sbaglio? Più o meno sì, ma mia figlia c'è il bianco, vuole mettere in frigo. Il rosso lo beve a temperatura ambiente, capito? Ma infatti ce lo metto fuori nella finestra della veranda, è che ho chiuso lo sportellone perché mi stava appannando tutti i vetri, invece caldo dentro, fuori ci sono 3 gradi e poi fa condensa, quindi ho abbassato, ho chiuso lo sportellone, ha già barricato tutto, dopo fa gli sciogli piazzi. Fai genio. Poi vado al lavoro, becca un po' poia. Entrare due e schizzi l'acqua. Oh, mamma! Ma non hanno chiuso il porto oggi? No, no, non l'hanno chiuso. Perché è prevista un po' di mareggiata, ma vanno in mare forza 5, forza 6. Ma non l'hanno chiuso. L'altro giorno non è partita la Tirrenia, è partita alle 5 del mattino, il giorno dopo. Figurati. Ok, e beh, la porta tenendo, sai, oggi? L'ultima verità no. No, è di nuovo tutto a capo, Robe. Quando c'è tempo avvicinato e vediamo di trovare una soluzione per quella. Non toccare niente però, se no c'è il rischio che si faccia danno. Bisogna fare una cosa, se no facciamo una modifica, gli allunghiamo quella chiusura, l'hai visto? Basta allungarla appena appena, il problema è risolto. Ma no, non so quando salire, che gli orari sono così adesso, sono gli orari sballati. E nave ritardo, se ti dico un orario poi magari là c'è la nave ritardo e non posso salire, quindi boh. Ma rivedi verso fine settimana e sperando che non piova come l'altro giorno. Il limite si costruisce con una barra filettata, si piega, si fa quella e si allunga, basta mezzo centimetro mio oggi, perché tirare come abbiamo fatto noi girandola non lo consiglio molto io, perché abbiamo rischiato, cioè di fare danno. Basta allungarla poco poco perché è corta, l'hai vista? O si salda su quella, ma come farla in un pezzo unico, non saldarla, perché basta allungarla mezzo centimetro e quella lì funziona perfettamente. Ma stamattina, ma è fuori asse la porta, è fuori asse la porta, perché tocca prima su e giù rimane aperta, capito? Fuori asse la porta. Quindi può essere successo che magari qualche sforzatura, qualcosa leggermente, ti batta un millimetro di piegamento in più dalla cerniera inferiore e ti tocca, però non toccarle, quelle sono in plastica, quelle cerniere, se fossero state in metallo avremmo fatto un'operazione, ma non le tocchiamo perché sennò facciamo una. Conviene intervenire sul coso e si fa in modo che si mette più impressione sotto, in modo che risulta aderente bene. Lo facciamo sugli sportelli delle macchine, questa operazione qua, però purtroppo di lì non è metallo, per cui certe cose non le puoi fare. Comunque oggi non ti preoccupare, lo risolviamo. Sì, infatti sono un po' così, perché se piove probabilmente acqua. Guarda, se proprio voi fate, togliete il dubbio, prendi quel nastro largo, non un nastro per pacchi, c'è quello da elettricisti, quello grosso, glielo passi in giro nella porta finché non si sistema, tanto si entra dall'altra parte, poi quando vieni lo facciamo. Non prendere quel nastro a rana, quello marrone, che se no ti rimane tutto il coso, come si chiama, attaccato l'adesivo. Prendi il nastro, quello da elettricisti, però largo, sarà 5 cm, e glielo passi in giro, in modo che l'acqua non ci cada. E poi, quando sei pronto, lo porti, ne tiriamo il nastro e lo facciamo bene. Ok, vai Claudio. Vai, Gio, rispondi. Posso anche farlo. Domani mattina lo compro questo, perché domani mattina ho un altro impegno e non so se ci posso andare, perché c'è questo cavolo di navi in ritardo, al maltempo. Non so neanche come sono messo. Sono nuovo per quello, sto pensando alla porta del campo tutto il giorno. Ma se è presente oggi, se il vento lo sfrutta da una parte, gira dalla porta opposta al camper e così ti protegge. Secondo me acqua non entra perché c'è un'altra guarnizione all'interno, cioè a meno che non vai con la lancia di lavaggio diretta proprio nella fessura, solo così, ma no, non entra secondo me. Speriamo. Oh Gianfranco, senti tu, se ti devo dire che ho sistemato una cosa. E io sono sempre qua, non lo sai. Eh beh Gianfranco, ti ho chiamato stamattina, non c'eri. Ho preso una chiavettina di quelle con le wifi, l'ho preso, attaccato quelle cose che non funzionavano, non funzionava tutto, immediatamente è insalata. Visto che qualcosa c'era. Oh yeah. Ciao Claudio, ciao Giulia, Eugenio, ho sentito che anche voi siete messi male e quindi io mi associo perché siamo tutti nello stesso club, anche se non ci vorremmo essere. Ciao Gianfranco, buonasera, ben ascoltato. Ciao Gianfranco, buonasera, se mi ascolti. Certo che ti ascolto. Come non potrei ascoltarti, Eugenio. Poi, ma hai detto che stanno arrivando navi militari per caso? Come? Cos'hai detto? No, ti ho chiesto, forse ho capito male io, se stanno anche arrivando delle navi militari a Porto Torres. No, negativo, per il momento niente. Per il momento niente. È arrivata una quando? Forse il mese scorso. Buonasera. Non lo ricordo quando. Ma io lì non c'ero, no, non mi è toccato e non c'ero. Ah, ho capo, perché quando ci sono io scendo, io, perché mi piace molto quella nave, tutto lì. Io e tutti i sofferenti siamo qua. Non possiamo neanche dire di essere un ospedale, perché anche gli ospedali ci hanno tolto oramai, per carità. Riprendi, Roberto, fa entrare al break. Avanti, chiedo, buonasera, avanti. Ciao Roberto, ciao a tutti. Sono rientrato da Campugna, comunque c'era un po' di freddo, mamma Giulia. Già lo so, già sono chiuso in casa, sono uscito stamattina e c'era freschetta. Ok, vai Claudio, torre di controllo. Ciao Rogerie, buonasera, ciao anche a Gianfranco di nuovo, buonasera a tutti, comunque sono qua, ciao Rogerie. Ciao Claudio, Gianfranco, Roberto, il mio amico di Porto Torres, avanti oggi. Allora, amico mio, sto a posto? Sto a posto, mi sono andato a fare un po' di spesa anche, adesso a casa, docciato, cambiato, perché solo ce l'ha fatto un po' di fritto, mi sono tutto puzzinato, a me non mi piazzi, e l'esecutivo durava per forza. Ehi, a me cosa mi ha comprato di buono? A te ho comprato, poi presa la pergamena, se ti piace, poi frutta, non so, le patatine quelle per fare in forno, visto che io fritto non le posso mangiare, anche se lo mangio ogni tanto. E pollo, cosa vuoi, non lo so, tortellini. A me con un piatto di spaghetti sei contenta, ma sono io mi accontento di poco. Spaghetti al sugo, cosa lega, una fogliettina di basilico, sono il più contento del mondo. No, spaghetti non mi piace, ma fettine sì. Va bene, quello che non come uso, gli spaghetti li uso, tipo lo stesso, i bucattini, cose così. Ma sta accorta la cipennette, tortiglioni, su, quella lì è a quintali. Avanti Robert. Ma io invece non mangio la pasta grossa, a me tutti i divani grossi non mi piace, io mangio spaghetti numero 5, che è la misura giusta, gnocchetti, maloredo, tutte quelle cose lì, però le paste quelle grandi, quelle cose no, non mi piace, come si chiamano quelle grosse, come le chiamano? Quella, tortiglioni. Quelli grossi che fanno soprattutto nel Lazio, a Roma, li usano col sugo, la matriciana, quel cavolo si chiama, quei cilindri rigati, quelli grossi, come si chiama? Rigatoni! Come? Rigatoni! Rigatoni? No, io la pasta ne vado matto, però ripeto, quella grossa no. La pasta numero uno, più buona di tutte, la pasta al forno, il cannellone, quella me la manderei tutti i giorni io. Ragazzi, consentitemi. Io ve l'ho fatto per ravioli dolci, quelli che fanno in gallura, ravioli dolci cosa redaso, oh mamma! Ravioli con poi con l'erba cipollina le deve mangiare fatti freschi, mamma mia, la morte sua. Comunque Giulio, buonasera anche a te, avanti. Ciao Roberto, ciao Claudio, poi c'è Gianfranco, poi c'è Eugenio e Luca, salutoni a tutti, buona serata. Non ve lamentate, siete vecchi, non siete come me ancora ragazzino, siete vecchi tutti quanti, avete capito, no? Per cui non ve lo potete lamentare, lasciate fare al tempo. Ciao Gianfra, avanti. Gianfra. Comunque lo sai qual è la pasta? A me piace un sacco, quella pasta che si usa per fare la pasta di ricotta, le pipette, quella al sugo, poi la rete che si riempie tutto di sugo, di carne macinata, poi una spruzzatina di pomodoro sopra, un po' di formaggio e un'altra spruzzatina di picantuzzo, già lo faccio piccante il sugo, buona retta, esci, avanti Cla. Via. Avete poco di fantasia, tutto buono, già va bene, importante ci sia sempre da mangiare. Ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato. Già faccio ancora? Ben ascoltato anche a te. E cosa ci vuoi fare? Quando la roba è in abbondanza va sempre bene, il fatto è quando non ce n'è, ma non è nel nostro caso. Noi apparteniamo ad un'altra categoria, grazie a Dio, e siamo bene tutti, per cui appetito non ne abbiamo. Forse 50 anni fa c'era qualcuno che aveva appetito, ma adesso gli italiani sono tutti necci, tutti a crepapelle mangiano, mamma mia, per carità. Luca, ripeti. Io dico una cosa, interessante mangiare, Giulio, è tanto, è tutto buono. Io l'unica cosa che non mangio, anzi l'unica, è che a me non piace il minestrone, non mi ci scende. Poi la pasta ai fagioli idem, invece se mi fai adesso la crepa con i fagioli la mangio, ma la pasta ai fagioli non si vara. La pasta ai patate idem, non ci scende. Poi il torretto, vabbè, pasta al burro non mi piace uguale, e il torretto mangio quasi tutto, va. Quello che è, poi ovvio, se non venuta proprio niente di niente da mangiare, faccio un sacrificio per mangiare quella roba che non mi piace. Il chili è troppo buono, piccante. Se manca sasso, un paio di autella, cosa vedi? Io non mangio ghiaia, non bevo parecchina. Io mangio tutte le paste anche a brodo, non c'è problema. Io mangio tutto. Io sono anziano e ho conosciuto i tempi brutti, per cui mangio tutto indistintamente. Non ce ne sono. E non sto vigiliando, non protesto mai, qualsiasi cosa che mia moglie cucina io mangio, per cui non c'è problema. Anche le minestroni, pasta e fagioli, pasta e ceci, pasta e cagofiori, cosa che lei non ne mangia, mia moglie, infatti l'ho fatto esclusivamente per me e mia figlia, e io mi mangio sempre il doppio piatto, per cui poi ognuno, come dicevano una volta i sardi, è tutto lo che piace a bocca, lo buoni tocca, dunque il problema è sempre quello. Quando uno le piace che mangia con gusto va sempre bene. Poi vabbè. Luca, la pasta abrasiva, mai mangiatela? È proprio buona. Stiamo parlando di pasta. Aspetta, se c'è Gianfranco un attimo devo fare una comunità. Gianfranco, ci sei? Sì, dimmi, ciao a chi è entrato comunque. Buonasera. Dimmi Roberto. Passa all'uno, dai, che continuiamo il discorso di ieri, un attimino così non disturbiamo qua. Ciao Natalino comunque. Vabbè. Che io esecutivo. Ciao a tutti. Ciao Gianfranco. Ciao Tattalino. Ma l'Inter con Venezia ha vinto, la Juve ha perso. Claudio, illuminami, perché qua non mi dà le partite. Ma guarda, io così di sfuggita, ma molto di sfuggita, stavo seguendo il Milan e stava perdendo col Sassuolo, poi non so se ha vinto o se è finita, non so. Ha perso 3-1, l'Inter si è avvicinata a un punto dalla vetta, dunque va perso, quest'anno vince l'Inter di nuovo. Sei contento Luca, non ti preoccupare, l'Inter sta andando alla grande e quest'anno ti dico che poi ne riparleremo a fine campionato e mi dirai Giulio aveva ragione. Avanti Luca, vince di nuovo l'Inter quest'anno, vedrai. Ce ne sono partite giù, E un attimo, attenzione, un attimo a crollare. Il pallone è rotondo, non è che vince l'Inter, adesso siamo lì, stiamo salendo piano piano. Ho visto che la Juve è un po' giù, 10 punti dall'Inter. La Juve non è tenuta, non sta puntando al campionato lui. Il pericolo della Juve sai qual è? Il campionato lo vince l'Inter, senza dubbio, più forte del Milan. Il Milan sta già iniziando a perdere colpi. Ma il problema più grave sai qual è per la Juve? Che deve fare il quarto posto ed è a 7 punti dal quarto posto. Capito Lu? se no il terzo, è lì che deve lei lottare adesso, anche se no l'anno che viene non fate manco la Champion, ed è una vergogna, una delle squadre, anzi la squadra più forte d'Italia, che per 9 anni ha vinto consecutivamente lo scudetto, è una vergogna, ma una vergogna totale, non si può vedere quella squadra. Giulio, abbiamo perso a Chiesa, lo sai, sì, al prossimo anno rientra. Io lo so, sì, purtroppo è così, tra una sfortuna e l'altra, e il pasticcio che hanno combinato la società, perché per conto mio è la società che non è più in grado di gestire la squadra come si deve, perché non è capace di acquistare elementi buoni, eccetera, eccetera. Sì, no, ma per rispondere anche a Luca, Luca è vero che il pallone è rotondo, ma il pallone bisogna saperlo giocare, è inutile che sia tondo o quadrato, se tu non lo sai giocare non c'entra niente che il pallone è tondo per tutti, però bisogna saperlo giocare, per cui si può garantire che quest'anno l'Inter sta giocando meglio di tutti, tanto perché ha i giocatori più bravi, che è ancora sull'onda e sulla spinta del vecchio allenatore, che Conte, per quanto fosse antipatico lui come uomo, però come allenatore ti posso garantire che ha instradato bene la formazione dell'Inter, che continua nonostante che ci manca Hakimi, nonostante che ci manca Lukaku, però si è preso Çalhanoğlu, che è un grande giocatore anche quello. Vai Luca. Scusate un attimo, io vi saluto, vai che devo andare al volo. Ciao, affrettati signori, sentimmo. Ciao a tutti, ci sentiamo. Ciao, buona serata. Ciao Eugenio, sono Tony, a presentarci. Ciao Eugenio, un abbraccio, buon lavoro, non te lo dico nemmeno perché so che stasera è molto triste col freddo che c'è, la giornata sta facendo, però purtroppo bisogna andare. Ciao, un abbraccio, a presto, avanti a chi tocca. Via, ciao Eugenio. Buona cena e buon trabacco. Ciao, avanti Roberto, non c'è. Giulio, riprendi. Ok, appunto ti stavo dicendo, l'Inter sta ancora giocando sull'onda che aveva creato Conte, è un'onda di gran bel gioco, perché è la squadra che gioca meglio di tutti, può capitare chiaramente una partita che magari non è proprio in giornata, però se dovessimo considerare i problemi che ha il Milan, la qualità dell'Inter e tanti problemi che ha anche il Napoli, ti posso garantire che l'Inter, se continua, a meno che non ci siano infortuni eccetera, però se continua così e se poi si riprende Barella, e allora non ve ne prendisci uno, veramente l'Inter quest'anno è sicuramente la squadra più forte, come lo era l'anno scorso, Luca. Sì, senza dubbio. Guarda, io dico una cosa, allora mi hanno dato un programmino per guardarmi le partite, però si blocca ogni tanto, a me mi prende i nervi e la verità non li sto guardando, però lo guardavo prima che avevo un altro programma, lo so anche quello, si bloccava, però me lo guardavo, non c'era Lukaku, sono sincero, adesso non le sto guardando le partite, però già sono sempre interista, Te ne do uno io di sito, tu scaricati Live Football, si scrive Live Football, si scrive Live Football, si legge, te lo ripeto in italiano, Live Football, così si legge Live Football, e tu scaricati quello, le partite del bene sul telefonino, sul tablet, non sul computer, sia ben chiaro, non sul computer, telefonino e tablet gratis, se poi hai l'apparecchiatura per attaccare la televisione te la puoi ingrandire e guardarla direttamente in televisione. Sì, Live Football, sì, no, a me hanno dato questo qua, Giulio, questo Eldorado, e qua vedo anche Mediaset, Rai, partite, Sky, quel programma nuovo che si chiama, come si chiama, Fanna, perché 4 lettere, da Zone, come si chiama? Da Zone, sì, e vabbè, quello lascia le prendere, quello Live Football, guarda, è difficilmente si interrompe, veramente, molto difficile, sì, può succedere che si interrompa anche quello, però dura qualche secondo, ma in un'intera partita si può interrompere, massimo, proprio esagerando, 2 volte, qui in linea di massima non si interrompe quasi mai. Sì, ma amico, c'ho, guarda, c'ho questo qua, aspetta, c'è una partita qua adesso, Roma-Torino, è in diretta, giusto? Sì, è in diretta, tu scaricati quel sito lì e vedrai che la vedi subito bene, e non vedi solo quelle italiane, vedi anche tutte le partite straniere volendo, però io naturalmente quando ci sono le partite italiane, soprattutto quelle principali, guardo quelle, capisci, oh, Luca? Ripeto, live football, tu scaricati quello che non è che deve fare niente, non ti deve registrare, non deve fare niente, tu scrivi quello lì sul telefonino, ti si apre la pagina, vai avanti e vedrai che avrai la partita gratis, tranquillamente. Avanti Claudio. Ehi, sì, no, ma non c'è un breve dubbio, ma ha giocato molto male il Milan, è vero, come dice Luca, una partita non ci può stare, ma per il Milan che, insomma, sta andando molto bene, però per la Juve non so voi già, sono conveniente, hanno preso 4 gol dal Liverpool a Londra, dal Liverpool dal Chelsea a Londra, cazzo in casa l'hanno massacrato allo Chelsea, hanno vinto 1-0 o 2-0, non riesco a capire questi giochi, beh, nettamente Conte ha fatto una bella squadra, una grandissima squadra, poi quel 3-5-2, quello è il gioco di Conte. Allegri prima va via 3-5-2, va, non sa manco più contare, quindi lasciamo perdere. Comunque, vinta al migliore per me anche quest'anno dell'Inter, poi vediamo Napoli e Milan cosa fanno, ma attenzione all'Atalanta. L'Atalanta è una grande squadra, va bene. Avanti a chi tocca, chi c'è rimasto? Gianfranco con Roberto ci sono sfottati, chi c'è oltre a noi? C'è la Natalino, allora Giulio, qua ce ne sono, scusa, poi faccio riprendere la Natalino, ce ne sono, allora, Live Football TV HD Stream, poi c'è il Football Live TV Streaming, ce ne sono due. Appunto, e tu clicca prima una, poi l'altra, quella che ti dà le partite ti tieni, no? È semplice, comunque quando HD è streaming sicuramente, guarda, adesso non me lo ricordo bene, fai che io ho già da anni questo, dunque non ho avuto modo di confermare, però ce l'ho sempre fisso sia nel tablet sia nel telefonino tranquillamente, e quando poi la voglio vedere grande ho l'apparecchiatura che si attacca dal telefonino alla televisione, si attacca non me lo ricordo, dopo un record da scatola te lo dico, e attacca la televisione e tramite il telefonino stesso non faccio altro che mandare il segnale alla televisione, lo vedo in grande, nel televisore grande da 45-48 pollici, l'antenna mio, quello grande, il salone insomma. Allora io lo trasmetto nella Smart TV con screen mirroring. Cromosat, ti stavo dicendo, l'apparecchiatura è Cromosat, adesso mi sono ricordato, è un'apparecchiatura, tu immaginati un orologio, il cerchio di un orologio, attaccato c'è un contatto, un filo tipo USB, eccetera, no? Perché c'è la presa USB, si attacca all'alimentatore, perché ci vuole l'alimentatore del telefonino stesso, non è che ci mette un alimentatore, il telefonino, il carico batteria del telefonino, si attacca a quello, devi interfacciare la televisione con questo Cromosat e tu vedi l'immagine della partita e la vedi nella televisione, tranquillamente, senza nessun problema, chiara, bella, pulita e gratis. Sì, ma io uso questo qua, screen mirroring, vado alla TV, lo imposto uguale, lo faccio connettere e dal telefonino mi trasmette tutto quello che ho nel telefonino, me lo trasmette dalla TV. Riprendi il clown un attimino, lo faccio bianco, faccio una prova, arrivo subito. Ehi, non problem, fai. No, io non mi sto guardando, io addirittura ho anche fatto la diretta di Sky. Non me la sono portata qua, non mi interessano soldi buttati, soldi degli occhi. Ogni tanto guardo sul telefonino anch'io e basta. Ma proprio ieri non ho guardato. seguendo, ma così il Milan ho visto che stava perdendo, poi mi hai detto che ha perso 3-1, ha preso una bella batosta perché era a Milano, aveva ancora Juve, ha preso 1-0, ma prendere 3 gol a Milano la cosa non è messa molto bene. Vabbè, dunque, rispetto a una partita non ci può stare, ma tutte le altre devono essere sì, però. Sì, Claudio, ma io per quanto riguarda la partita di ieri con la Juve, non è che io mi preoccupo di più di tanto per quella partita di ieri, per la sconfitta di ieri, e ti spiego perché. Perché l'Atalanta è una squadra che è in grado di vincere su qualsiasi campo, non solamente in Italia, ma addirittura in Europa. Viste, considerate che fa un gioco tipo europeo, non è come le squadre italiane che giocano all'italiana, eccetera. L'Atalanta fa un gioco europeo, cioè sempre in attacco, mentre invece le squadre italiane prima si fanno 10 minuti in attacco, la pulizia di uomini, eccetera, eccetera. L'Atalanta ieri ha capito benissimo, perché ieri come gioco la Juve all'Atalanta l'ha fatta che era grossa ieri. Però qual è il problema? Che la Juve non ha attaccanti che segnano. Io te l'avevo detto dall'inizio della stagione, la Juve si sta riconfermando di nuovo il prestito di Morata. Morata non è niente, anzi un anno manno, non riesce a fare un gol, perché già da prima, dagli anni passati, quando non ce l'avevano prima la Juve, Morata era un incapace, un attaccante che non è da Juve, anzi è un attaccante della Serie B, della categoria, che considerando il valore e il nome che si è fatto e che gli hanno fatto fare, perché realmente Morata non è un giocatore del calcio, è un inedito come attaccante. E poi invade anche lo spazio agli altri attaccanti, cosa che la Juve purtroppo ancora non ha capito. Ecco qual è il discorso, Claudio. Non so, però l'aveva voluto Allegri, ma anche Dybala non è in forma, non è vero, c'è questo Kulusevski, poi c'è questo Ken. Attaccanti ne ha, ma non segnano, capito? Non segnano, bisogna segnare. Io sono convinto che se fosse rimasto Ronaldo, la partita l'avrebbe fatta, capito? Che ne dicano, però Ronaldo ci rimaneva ancora quest'anno, la Juve faceva un bel campionato e se la giocava con Milan e Inter, perché lo veniva a Baniciulo, però non segnano, perché io il gioco lo vedo, non è che non lo vedo, giocano bene, ma non segnano, bisogna segnare, capito? Bisogna segnare, e così la realtà è quella. Perché giocano solo esclusivamente in fase difensiva e basta, non sanno fare gioco d'attacco nella maniera più assoluta. Soprattutto il centrocampo non dà un minimo di manforte all'attacco, che è fondamentale, l'aiuto dei centrocampisti in fase d'attacco, in fase degli attaccanti. Loro non sono capaci di fare un minimo di inserimento, eccetera. Kulusevski era bravo prima con l'Atalanta e sono convinto, se ritorna all'Atalanta, perché si pensa di anche quello, che possa tornare all'Atalanta, diventa sicuramente un gran giocatore. La Juve non è cazzata, capace a piazzarlo nel punto giusto, nello spazio giusto, come non è capace nemmeno a piazzare a Chiesa, una di a destra, una di a sinistra, uno un giorno al centro, uno un giorno all'estrema sinistra. Ma insomma, si può sapere questo giocatore, qual è il ruolo di questo giocatore e degli altri giocatori? Allegri è una minestra riscaldata, Allegri ha vinto sì 5 campionati di fila con la Juve, però gli ultimi due, e lo ripeto a grande voce, li ha vinti la Juve come giocatori perché c'erano allora, oggi sono dei morti, e ti dico di più, gli ultimi due perché li ha vinti Allegri? Perché c'erano le altre squadre che erano proprio in decadenza proprio assoluta, davvero finivano tutti a 20 a 25 punti dalla Juve, non è possibile, come la Inter, come la Milan allora, è per quello che ha vinto 5 titoli di seguito. I primi 3 campionati li ha vinto Allegri, li ha vinto sull'onda della spinta della squadra che aveva costruito Conte, sicché Allegri meriti non ne ha, e ne hanno dato 9 milioni all'anno per 5 anni. Mi dice che ho macchia a vero, insomma. Guarda, Agnelli è proprio incapace come presidente della Juventus. Vai ancora qua. Non so, ma infatti è lì il problema. Ci hanno fatto le cose troppo messe male, secondo me. Troppi soldi all'allenatore, questi acquisti che non sono serviti a niente. Poi si gioca la primavera della Juventus, eh? Se prendono quei due attaccanti alla primavera, la Juventus recupera punti. Avete credito? Sì, ma non è escluso che possano giocare meglio quei ragazzi che i titolari da 7-8 milioni all'anno di stipendio. E ancora questo Dybala ormai non serve più. Dybala dovrebbe vendere la Juve adesso che è ancora in tempo, che qualche cosa vale, perché non è che vale lui personalmente come giocatore, è un agnello, perché non è stato mai continuo. Ha fatto sì dei bei campionati, ci sono state delle stagioni che ha fatto anche una ventina di gol, tutto quello che vuoi, però aveva anche i compagni che l'aiutavano molto, ma oggi purtroppo sono tutti scadenti, compresi tutti i dirigenti, è una società di persone, di personaggi scadenti, tutti quanti, sia i giocatori e che l'allenatore, che la società compresa, tutti, indistintamente. Ma non va bene. Cioè la Juve in quella posizione a 7 punti dal quarto posto, 7 punti dal quarto posto, capito? E va per la Lazio, Casira per la Lazio, Roma Lazio, quindi Roma Lazio, non mi ricordo. O Lazio Tribù, non mi ricordo, comunque c'è la Lazio. Se la Lazio vince passa quinta, capito? Quindi cioè vedere una Juventus che è stata sempre dominatrice nel campionato italiano, vederla in quella posizione non va bene. E sono convintissimo al 100%, ma non lo dico la Juventus, lo dico la Sportivo, che la Juve non è fa di Europa, di Champion il prossimo anno. Non è fa perché non si qualifica. Non si qualifica assolutamente. Già era prima dello girone di Champion, è passata seconda e ora deve fare i preliminari. Capito? Ma di cosa stiamo parlando? Boh. Lasciamo perdere comunque. Allora, mi tocca sicuramente un Real Madrid o qualche Liverpool, Manchester, che ci subito vorrà le balle. Ma sì, sicuramente. Adesso passata gli ottavi di finale, e cosa ti credi che va avanti? La PG, una squadra che gioca in quel modo non può fare molta strada, assolutamente. È una squadra proprio in declino, nel vero senso della parola. Sono 4-5 anni che stanno cercando di comprare un paio di centrocampisti come si deve. Nulla la va, no, non è possibile. Tu basta pensare che gli ultimi due anni il centrocampo perché teneva un pochino? Perché avevano Mandzukic che giocava dietro e dunque dava un manforte alla grandissima al centrocampo. Ma adesso purtroppo quell'imbecille di Allegri, Mandzukic, se l'ha dato andare, l'ha distrutto perché non l'ha voluto più, l'ha fatto scappare, e allora non ha più quel sostegno di quel tornante lì. Ecco qual è il discorso. Per cui la Juve, se non compra difensori e centrocampisti e anche attaccanti di grido, non c'è niente da fare. È una vita che sta cercando di comprare Zapata, non è mai riuscito. E il problema è quello, non sono in grado i dirigenti di addestrare una squadra come si deve. No? Purtroppo Morata, cioè Marotta non c'è più, anche se errori ne ha fatto anche lui, però era l'unico che qualcosa ne capiva. Ma non ne comprende più niente nessuno completamente. È una Juve in completo declino, guarda. Società compresa. Ehi, Marotta, che ne dicano, è stato un bravissimo direttore generale della Juve, ha saputo spendere bene, ha saputo acquistare, non ci dimentichiamo degli acquisti che ha fatto, capito? Secondo me il suo direttore generale che aveva Paratici, Parato Voci, ma dura para, però. Si è mancato di radio nel finale, però cosa che lupina adesso è. parlate c'è a Conte, no? con Conte. Dunque vedrai che Conte come verrà di Selami e Tottenham, nonostante che Tottenham non è una grandissima squadra, però vedrai come Conte riuscirà a mettere in sesto veramente. Vabbè, comunque, ma non c'è rimasto più nessuno in questo canale, sono noi due. Però. Non so, cos'è che hai detto, sono mancato di radio? Come mai sono mancato di radio? Nella parte finale proprio lontanissima era, ma lontana che non si capiva, non si sentiva più niente. E dunque, nell'ultimo tratto però e basta, forse è schiacciato male, non so. No, io lo so quello, è questo MC60 che è vecchiotto, ogni tanto fa il mi crea problemi. Devo controllarlo bene, ma gli avevo già messo anche lo spray l'altra volta, non lo stava più facendo, avanza e ci ogni tanto si fa l'umo. Vabbè, teniamo sotto controllo lo smitter, non c'è problema. No, c'era anche Natalino, non so se è andato a cenare. Boh, Natali, ci sei? Sì che ci sono, Cla. Ci sono, ero da un'altra parte, capito? Ehi, è positivo, non so neanche che canale ci ha ascoltato Roberto. Il solito, sull'uno. Canale 1 di Ripescherecci, va bene. Kappa, capito mi hai, così è, vabbè. Aspettiamo, cosa succede? Vai Giulio. Ehi, cosa succede? Poco da aspettarci, sì. Quest'anno dalla Juve c'è poco da aspettarsi. Già l'anno scorso per miracolo è riuscita a entrare in cinque, proprio per puro miracolo. Tu pensa solamente una cosa, che ha Allegri adesso in questo momento ha 7-8 punti meno di quanti ne aveva Pirlo a questo punto del campionato. È roba di 15 di quanto ne aveva Sarri prima ancora, nell'altro campionato precedente. Dunque significa che Sarri, vabbè, ha vinto un campionato e vabbè, tanto di merito, anche se non è che era questo grande allenatore per la squadra della Juve perlomeno. Per il Napoli era un grandissimo, per il Chelsea è stato lo stesso un grandissimo allenatore, ma per la Juve proprio non era questo grande allenatore, però ha vinto lo stesso. E Pirlo lo stesso, ha fatto meglio di Allegri, perché Pirlo a questo punto del campionato, alla 13ª o 14ª partita che siamo, aveva 7 o 8 punti più di quanti ne ha Allegri in questo momento. Perciò ti puoi immaginare. Va bene, dai. Natali, parla che tu di calcio, dai, non ti interessa. Ma mi sono disaffezionato, io guardo solo l'Italia e boh, quando gioca l'Italia e basta, figurati, ero dalla Juve quando mi interessavo di calcio, adesso no, mi sono disaffezionato più. Buona Italia, buona. La gente che vanno a faccia le preliminari e non fare il campionato del mondo, vedete? E infatti anche quello, sto pensando anch'io che sia così, che ci elimina pure questa volta, boh. Hanno fatto l'entrata di Rurione e città di Lumazzone, mi pare sorprendente. Squadra che abbiamo sempre picchiato forte, ci sono fatti qui, grazie alla Viane Baleggiata, vabbè. Ne vedremo delle belle, va. Vai Giulio. L'Italia ha perso la qualificazione per due calci di rigore, perché i due calci di rigore che ha tirato quello che tra l'altro era anche lui il candidato a pallone d'oro, che poi non è vero io come mai possa essere candidato quello quel giocatore lì al pallone d'oro, manco Massoglio, ce ne sono giocatori altro che lui, ma quante si chiama, che non mi ricordo come si chiama, vabbè comunque già mi avete capito, che ha sbagliato i due rigori, se no quei due rigori sarebbero state due vittorie, saremmo stati già qualificati di diritto, invece adesso dobbiamo fare playoff per andare avanti e se incontriamo il Portogallo non lo so se ce la facciamo, e vedrai che proprio lì Rolando ci castiga, mi vedrai, mi se incontriamo il Portogallo, Claudio. Bene sia, a chi Giorginio va a dire le rigorie, va a dire ma rigorista di Goccia, è meglio Bonucci dire le rigorie. E infatti, non capisco, ma siccome ormai era sulla bocca di tutti, sarà il nuovo pallone loro, sarà il giudizio, e poi non capisco con quale titolo poteva essere il pallone loro quello, capita, non lo so io. Ma allora era il Galoi, ma poi lo stesso Benzema, lo stesso Ronaldo, che avevano fatto tutti quei gol, cosa noi ci siamo dimenticati, e mi vai a dire che poteva vincere il pallone d'oro, ma fa piacere, ma dai, ma forse la Coppa di Gelato gli andava bene, forse per dargli un regalino, per fargli un regalino, ma non di più. Giorginio, ma guarda Giorginio, ma guarda, a me non mi è mai piaciuto, la verità, non è questo grandissimo giocatore, è un giocatore così discreto, ma non è che sia questo campione. I pallone d'oro li vincono i fuori classe, se non sei fuori classe non lo puoi vincere, solo che abbiamo una manica di giornalisti deficienti che alle volte non fanno altro che scrivere senza capire un accidente, Claudio. La realtà già è quella, però se l'hanno messo in mezzo per colpa ne ha lui, non è a colpa, quindi vabbè, comunque i giochi dicendo che non li bascia le playoff, non li bascia l'Italia, non li bascia, perché ci sono squadre molto ma molto più forti di lei, e non solo il Portogallo, ma ce ne sono anche altre molto più forti, capito mi hai? Quindi è così, lo dico io che è così, vai Natali. Sì, infatti, adesso vediamo cosa succede, ma secondo me c'è per me di sicurini pure a Budu, vita russa. Perché per loro, come ha detto Giulio, bastava tirarli bene a rigori, noi avevamo il passaggio in automatico, ci hanno mangiato due rigori, hanno pareggiato e hanno bucato dalla Svizzera, che l'abbiamo sempre picchiata, ma di cosa ci muoviamo i denti. Infatti. Boh. All'inizio già mi piaceva come squadra, ma va, si sono attaccati a fare. Ma è sempre così, le squadre italiane sono sempre così, hanno un momento di clamore, poi si va da una rubumbo così come se niente fosse, come quando il fuoco non è più attestato dal carbone o dalla legna, così fanno le squadre degli italiani, ma fa carità, una massa di pellegrini, da giocatori, tutti quanti super palazzi, e poi mi bravo a dire sono stanchi, capita, stanchi sono. Cosa può dire allora un lavoratore che lavora tutto il giorno sul ponte, in Tunigheni, tutta la settimana, a Capassoli, non lo so io, e non è mai stanco, e lavora 8-9 ore al giorno, da lunedì al sabato. E lì si fa con i 4 D, 4 valdebbi della pallone, ma divertirsi sui cracchi, giocando, anche se giocano ogni 3 giorni, chi gioca ogni 3 giorni, perché non sono tutti, perché ci sono quelli che giocano una volta alla settimana, perché se non fanno coppe non giocano durante la settimana. E sei cracco, va, sono pensiosi e basta, cosa? Vai qua. E Claudio non riprende. Io dico. Ma scusa, io dico che sono stanchi dagli strafitti che fanno, dai troppi soldi che hanno, dai troppi divertimenti che hanno. Non sono stanchi da lavorare, non ti preoccupare. No, sono qua che stavo rispondendo a mia figlia. Scusate, mi stavo telefonando. Riprendi? Ia, non problem. Non è così, là. È normale, e allora? Troppi soldi prendono, troppi servizi, ci sono pochi, come si dice, prima andavano in ritiro, adesso il ritiro ce ne sono poche, capito? Durante la settimana escono, si imbriagheggiano, una bella fidata, ha detto 4 macchine da imbriagheri. Ehi, si imbriagheggiano, si trovano, chissà cosa tu fai. i termini. Capito? Quando c'era il ritiro non ne potevi fare, a chi voleva allineare per fare vacconi. Una via una ciappata a mio cugino, una ciappata all'allenatore e ti multano. Non puoi uscire quando sei in ritiro. Li dici in viaggiare quando sei in ritiro. Li dici in viaggiare. Ah, il calcio è stato sempre una vergogna, capito? Perché la gente muore di fame e questi prendono fior di miliardi, capito? C'è un giocatore, cazzo, che prende 7 milioni di euro all'anno, sono 16 miliardi, mi nata lì, 16 miliardi sono. E infatti, Siariani pensavo a pagargli un bel dinanco che c'ha ienti, lo stipendio normale deve prendere, no tutti gli si dinanco, e forse non ha negana di Yuga. E per forza fanno quello che fanno, macchine di lusso, lusso in generale, aspetta c'è stato un break avanti. Negativo, c'è troppo QRM e anche le stazionarie mi stanno salendo. Sempre c'è il problema dell'acqua. E allora, purtroppo sul tetto non posso salire se non la prima sapore.